questa notte, prima che sia giorno, fai che tu sia l'alba nuova, nuova per me. Ora adesso, ora adesso. Dammi tuo cuore, dammi l'amore, dammi tuo cuore, dammi l'amore, dammi tuo cuore, dammi l'amore, dammi tuo cuore. Dammi tuo cuore, dammi l'amore, dammi tuo cuore, dammi l'amore. Sola, mi stringe al petto, solo per te, io non so perché, è stato scritto nel destino, incontrarti adesso, pensiero mio. Dammi tuo cuore, dammi l'amore, dammi tuo cuore, dammi l'amore, dammi tuo cuore, dammi l'amore, dammi tuo cuore, dammi l'amore. Sole, immagini, suoni, melodia, il nostro tempo, la tua fantasia, perché oggi tu sei mia, infiniti spazi nel nostro cuore.